allora già può entrare su questo canale. Buonasera, ben sentito. Aspetta, sta lì, com'è? Tutto a posto? Tutto a posto? Stavo ascoltando un po' quell'altro canale. Ma ci dirà di non capire, ci dirà niente. Lui sta a carico del gioco, per carità. Per carità. Me lo posso immaginare. Guarda, mi sono sdraiato, ci sono stati di lui, che oggi finalmente ho parlato in orario. Se ti dico mi sono cominciato alle 6, alle 6 mi sono fatto, ma proprio addormentato. Stanco morto, proprio da riposare veramente. E adesso domani si inizia tutta la settimana. Ma domani a Sardegna, l'anticiclone delle Azzorre, a quanto ho capito, e a Sardegna la temperatura, ma la giusti. Oh, quindi da domani abbiamo un nuovo caldo, e allora siamo a posto. E proprio quando tu devi andare a travagliare, lo sai, così. Tu magari sono andato a pigliarci un caffè già in Chiglia al Colorato, e quel bar dove andavamo sempre, quello di quell'occhio di gatto lì, cerca di capire, era chiuso. Oh, chiuso era. Questa mattina ho preso il primo caffè da solo, caffè da sedi presto, andato a fare colazione proprio. Mi sono andato presto, poi mi ho sistemato il cane, ho chiamato Massimiliano, ma adesso sono sceso giù a San Giovanni e ci abbiamo preso un altro caffè, si è venuto anche Sandro, siamo arrivati vicino a mezzogiorno e mezzo, e poi mi sono giocato da casa, sono venuto a casa, all'una e qualcosa, abbiamo pranzato alle due, mi gioco molto in cuccetta, ma ti dico proprio, dormito, stanco morto. E vabbè, almeno abbiamo recuperato un po' qualcosa, dai. Io infatti ando in estracqua, sono asciutto, proprio, quasi proprio vero. E io non lo sapevo che eri libero tu e che voi andavate là. Ero con Gianni, ero stamattina. Ma io so che Gianni la domenica dedica altre cose, quindi non ho manco chiamato. Nulla, come ci vediamo la domenica, ci sentiamo, a volte quando sono libero, quindi ci prendiamo il caffè. Poi c'era Sandro in campagna e stava facendo roba, allora si è avvicinato anche lui, che è lì. Due chiacchiere, due cose, si è fatto mezzo di manco, ci siamo avvezzati. E vabbè, dai. Una mattinata diversa, già va bene. E siete andati là dove c'è, come si chiama, l'ultimo piano in fondo, il divisore cinese, lì era chiuso. Chiuso era. Boh, è strano, era sempre aperto la domenica e oggi era chiuso. Ma perché mi ha telefonato Gianni, la verità, io stavo andando a fare una commissione, ma ha telefonato e tu sono a fare questa commissione qua, se aspettimi, ti fai trovare giù, passo e andiamo. Si è mandati lì al Quadrato, ma infatti pensavo che tu stavi lavorando. No, l'ho detto ieri che ho girato il posto, se no non sarei rientrato, capito? Non sarei rientrato, se lavoravo stamattina non sarei rientrato, esatto, guardato fare, capito? Invece era riposo, quindi me ne sono rientrato la venerdì sera, adesso domani mattina me ne riparo, capito? E vabbè, ma stavo a chiamare, non c'è problema. Preso il caffè tutti assieme, sarà per la prossima vulcana. Io ti ripeto, pensavo Gianni fosse impegnato in altre cose, la domenica sempre da altre parti, quindi non ci ho pensato a fare il giro di telefono. E vabbè. E Rata Pignara è andata a Platamona a accertarsi che la ragazza non ce l'abbia portata al vento. Sicuramente in Chivi è andato a Cicala con la rita, manco le basi cara, le porta il pigiattino. Ah, bello, non portare la frittata, l'importante è che non sia salame. No, il salame gli piace, l'altra roba no. No, è vero, lei ha detto che l'importante sia salame, capito? A capo vorrei aver cotto lo salame io. Ecco, tu immagini Gianmarco, bubu, quel crumino che va da quella di Trattamona e non entra qua a salutare gli amici. Se non è impegnato, cosa devi fare? Quando è impegnato così. No, ma era preoccupato, il vento, l'acqua, capito? Ma era andato a portare il telone nuovo, la gente andava a campeggio. Boh, disillusa. Io il gioco non entra, ma era giustizia. Vabbè, Gianni non c'è. Sicuramente è in tournée stasera. Il tempo si sta rimettendo bene, però non si sta bene, la temperatura non è molto alta. Se rimane così a me mi va bene. Se invece comincia fra, allora è triste. Cazzo, poi devi fare chilometri con la macchina, è un casino il lavoro tuo. Te ne so qualcosa io già. Vicino un caso più totale, l'inverno un caso ghiaccio, neve, fulmini, droni, di tutto giù passato. Una rottura di scatole. Vabbè, questo è il tabacco, questo bisogna fare. Per le impressioni già stava nuda. No, io non mollo, io potrei andare con l'anima. Non mollo, voglio andare col massimo, capito, con l'età, quindi non mollo. Almeno sono così sicuro che posso campare. No, chissà, pensione di misera pensione che sta lavando. E infatti io c'è un problema, qua. No, io potrei andare con la contributiva, ma non ci vado. Non ci vado con la contributiva, capito? 2 anni sono, per passare in fretta, sono 42 anni di servizio, ma non ci vado. Assolutamente, rispetto all'età. Almeno c'ho, so che c'ho una buona pressione. Sono tirati in omicidio, diretti. E infatti, da me tutto è mega travagliato. Lo sa fuchetta lo governo deve travagliare così. Per carità, guarda, stiamo parlando di uno abbastanza conosciuto a Sassari, ha fatto 2 anni di legislatura alla regione, che 7.000 euro di missione al mese, biglia, ma te immaginaci. E allora, a chi meglio di noi, meglio di Babbo, che ha travagliato 50 anni, la buona manco della pensione, si ha goduto, chi c'ha niente, insomma. Ma vai, pure tutti i busirati, fatemi schifo. Per carità, un assessore regionale che avrà 60, io penso che non ci abbia poco più di 65 anni. Poco più di 65 anni, in pensione con 7.000 euro al mese. Ma dimmi, tu pensate la cattiva se stava nulla a mangiare la sera. Uno che lavora per 40 anni si aveva in pensione con 800 euro al mese. Uno schifo veramente. Uno schifo sì. Perché purtroppo oggi è un casino, anche perché la gente entra a lavorare tardi, quando riesce a trovare lavoro, a chi per pulisci li vuole sapere da raglio, buru. È un macello in Italia. Così, infatti ci sono aziende che stanno cercando di mettere in mobilità, dare scivoli, dare cose per rinfrescare un po' le aziende, ma la gente non accetta, anche a me vanno proposte. Assolutamente no. Io continuo fino a 65 anni, come una fruttiunda, almeno ti ripeto, sono sicuro che quello che ho lavorato rispetta, verrà un attimino, ho dovuto tirare un missi. Voglio avere il doppio, voglio andare con il doppio, ma qui gioco il campo tranquillo, e vivo la vecchiaia, finta che non mi lascia Gesù Cristo, si mi lascia chi? Anche perché c'è morto, che non è pescio che muri. È un casotto, eh. Babbo della pensione non se ne è goduto, poverino. E già lo so, non l'ho conosciuto. E cosa è, non si chiama Torino? Il vice che lo abita qua. Andava in pensione 2 mesi, a tenere il carico, già giù, era un mio carbonato, è giunto l'infarto del muro. Cazzo, da sfortuna. E il governo si è intascato tutti i cazzo di contributi di insommo. Vedo. Una cosa allucinante è stata. Una cosa allucinante, 60 anni ci avevo. 60 anni abbiamo compiuti. Ma ci avevo gli urbani. Allucinante. E come ti ho detto altri quello non si è ancora scoperto che cos'è, se capito l'ugoso, l'emozione, sia la pensione dopo tanti anni, eccetera, cioè. A volte l'ugori reggi e a volte non reggi, e quindi una rientrata a fare la spesa, la loro spine, salendo le scale, è rimasto seduto nel gradino di casa sui. Cosa veramente pazzesca, e vabbè, ma io si dico sempre lo stress di questo vini all'altri, a me io non mi vede lo stress. A me guarda, mi è venuto giovane l'infarto, nel 2007 a me mi è venuto, cazzo, sono cose imprevedibili quelle. Guarda l'Inps, che ci aiuta. Sì, sono quelli che sono al piano di sotto, no? Nelle strutture sottoterra. C'è una banda lì, c'è un servizio particolare di pindacci che quando stai per andare in pensione danno la cartella e inizia con i pupazzetti a metterti di spilli dappertutto e ti fanno morire per risparmiare di passarti la pensione, i contributi tutto quanto. Sono pindacci. È stato fallito a te, è una cosa pazzesca. È una cosa pazzesca, cioè quando uno arriva alla pensione il 35%, stavo dicendo l'altro giorno alla televisione, poi per testata dall'Istat, non si gode la pensione per problemi di salute. Ma porca miseria, hai lavorato una vita, sarà come un pesce, alle pensioni e muri, ma sono bravanti, allucinanti, proprio cose pazzesche. O prima di andare in pensione, qualche anno prima, 6 mesi prima, 8 mesi prima, che inizia ad ammalarti, ad ammalarti gravemente, come che si è fatto apposta, e a trovare che aggiungo andare in pensione, mi sono ammalato, capito? Allucinante, vabbè. Speriamo bene, no? Speriamo bene. Ciao Gianfra, ben ascoltato, buonasera, avanti Natalino. Natalino. Ehi, siamo qua. E mi è entrato Gianfranco. Ehi, già l'ho sentito, mi viene capendo la risa che mi sono... La dittigata, la macumba. E allora Natalì, ciao, non lo sapete. Sono pindacci, ma di quelli pindacci, mica, quelli cattivi che ti la... i sussinchi dicono, ti mandano di gas femmino, e dice, e poi ti cadono pure, se in macchina lì ti arriva a frontale, ne fa pure 3 o 4 dei pensionati, oppure li investono, anche se sono su un marciapiede. Poi quanti colleghi ci sono stati che non ci sono più, andati in pensione un paio di mesi, boh, chiuso, e passati sulla tua canale. Oi, ciao Gianfra, ben sentito. Ciao Natali, quindi qua io sto prendendo una decisione drastica, con la pensione a 80 anni se mi lascio. Una voce a Gianfra. Cosa hai detto Natali? Dio te lo faccia! Sì, speriamo, anche se mi stanno bombardando anche a me, ma sono proprio in guerra, portando fino all'ultimo minuto a... è tosta, ma tosta che è una cosa micidiale. Comunque, speriamo un po' come fa a finire. Cioè, mi raccomando, voi attrezzati, cornetti, scongiuri contro, insomma, tutto l'accessorio alla foto. Adesso mi busco un peso di cavallo e l'attacco al muro qua. E anche i cornetti. E i cornetti ce li abbiamo già. È un casino, È un casino, no, già proposto già l'anno scorso, se volevo, mi davano loro la differenza, ma non ho accettato, assolutamente, voglio continuare sino a quando ce la faccio e andare al massimo, perché sennò una presa in giro, capito, 40 anni di lavoro, ti propone, mi dicono messi, ma non ti avvi, vai, continuiamo, non cambia niente. Quello che 2 sono 5 non cambia niente, ma ce ne andiamo col massimo, ci servi del luci, ciao, va bene così, tanto, a voi, arrivi, muori e sei fermato. parlando poco fa, mio cognato, lui c'ha 41 anni, ha detto che aspettare un altro anno per poter andare, e quindi è così. 41 anni di servizio c'ha? Sì, deve averne 42 per poter andare, perché se no le tolgono parecchia roba. E che età c'ha? Quanto è meno? No, è più grande. 64, credo. Così voglio fare io. Con oltre 42 anni di servizio e almeno 63-64, insomma. Perché è così, accumuli tutto. Riesci ad avere una buona pensione. Non dico con l'ultimo stipendio, perché io sono un stipendio abbastanza alto, ma almeno 100% di quello, insomma, abbiamo pensione da 1.300-1.400 euro al mese, allora va bene, ma no, ho più detto io, ho capito, dandoti uno scivolo e una buona uscita, a voi chi di là, ti mani di là e capitano più detto io lo mesi, vai, cocca di vai. Ma tu perché sei, c'è uno stipendio grosso, ma lui... fortunato, proprio fortunato arriva a 1000 euro. Quando ci andrò io, anche se ci vado prima, sono tra gli 800, già calcolati, quindi non sono cifre abbastanza esatte. Può essere dalle 800, anche meno di 800, capito? Perché tra una trichetta là che te ne tolgono con le 400 euro le perdi. Infatti quella è la proposta che ho fatto a me, se vado via adesso. Fine 2017, no, sono abbastanza in forma per poter continuare, per passare in fresca, no? C'è un problema, però almeno sono sicuro che posso campare e chiudermi la vita, non devo fare, e così è mia moglie lo stesso, assolutamente, la stessa cosa, anche lei deve aspettare, perché lei ha 22 anni di contributi, però per le donne c'è già la minima, c'è già la minima, quando ha 65 anni allora le danno, la completano, capito? Quindi, ma ti ripeto, ribadisco, non manco riesci a campare, se no, lui è a Rubiaco, ti si vede la trachea, vai Natali. E anche le tue figlie. Anche. Vabbè, ma la trachea completa, capisci? Con la bella bocca, vammi, ci vedi l'isola della Cinara. Ui, vabbè, che voglio che ti dica già qua, continuiamo. Tanto. Ma quel poco l'ora che abita qua, quello non fa più niente, sta in ufficio così, è giusto che si è piazza di Bea e sciogamo. Fanno le rivoluzioni, quindi tu fai questo, fino a quando ti fanno fare un tubo. E lui in questa situazione, come tanti altri, chi non c'ha, è anche un esperto informatico molto bravo, quindi potrebbe anche darci una mano, ma non glielo fanno fare, lo tengono di lì e queste cose, capito? Cose assurde che le normali persone non capiscono. Io adesso rientro di nuovo, cerco di fare qualcosa, però la sostanza è che se non mi danno personale, io mi attacco al tram, cosa faccio tutto da solo? Siamo in tre, quindi è un casino, manca personale, gente nuova, non te la assumono, anche se la assumono mi occorre almeno un anno per farmi imparare qualche cosa. E a un certo punto tu cosa dici? Ascolta, io ho fatto sempre il mio dovere ed è del mio meglio. Se questi vogliono proprio posteggiarti di lì, io mi posteggio, faccio come gli altri, altro non posso fare, non dipende da me. Tanto è una guerra contro il mulino e il vento, capito? Tu fai lo stesso, giri in macchina, fai quello che puoi fare. Quando non lo puoi fare, ti entro in ufficio, ti siedi e monta a secchio. Se non c'è mezzo di poter fare di più, cosa fai? È un disastro. No, ma è veramente, anche da noi, vabbè, via, l'altro è colpa di, perché se io vado ad inserire in un'azienda come la nostra, insomma, nel personale interinale lo devo inserire con un minimo di preparazione, perché se io devo affiancare un altro operatore, un altro conduttore ad un interinale, cosa faccio? È come che stia lavorando sempre solo l'operatore, non c'è niente da fare, infatti nell'organico il problema è quello, che non si riesce durante le 6 ore 40 a coordinare i lavori perché manca personale specializzato. Sì, ti danno una mano questi interinali, per carità, sono persone che lavorano, che si impegnano, però non hanno quella capacità e quella preparazione che serve per poter spostare determinate cose, capito? Cioè se io ho un piano di lavoro in 6 ore 40 e ho 8 persone, cosa faccio? Se ne devo spostare una, quello mi rimane solo, a chi sposto? Sposto lo specializzato, e te ne dice, ma io quello non lo so fare, e cosa metti in voglia? Dove ti metto? Dimmelo, ti metto. A pulire tutto il Marzano, quel cubo della paletta, e non so cosa farti fare io. E quindi sei costretto a non poter spostare l'altro operatore per far sì che il processo di impianti e tutto ciò che è inerente a quel lavoro delle 6 ore 40 sia contestuale nell'ordine di servizio. Quindi cosa a me mi contestano pure che quel lavoro non è stato fatto, devo dire, ma quello non lo sa fare, si arrangi, ne metto un altro, è tutto un giro di casini che non viene bene a dirlo, però le pretese sono quelle, il lavoro deve essere sviluppato in quelle determinate ore, deve essere fatto tutto come l'ordine del giorno prevede, cioè Ravini, già fa, credimi, io mi sto trattenendo 3-4 ore in più tutti i giorni per far sì che si riesca a coordinare e fare tutto quello che è il programma, ma alla fine, cioè, quanto può resistere uno? Cioè da giugno a settembre è così, facendo 10 ore al giorno più tutti i chilometri che macino per i controlli degli impianti, non esiste una cosa del genere, capite? È meglio morire così, è meglio, io figurati che non sto manco rientrando a volte, mi rimango fuori perché non ce la faccio poi a... sono troppo stanco, capite? Un casino. Vai Natalino, è chiacchierando con la moglie, capito Gianfranco? No, perché lo vedo spesso, cioè prima lavoravo di meno, forse un po' più impegnato anche con gli orari lavorativi, eccetera, adesso lo vedo molto più spesso, quindi è chiaro che stia facendo orario d'ufficio, quello la molla tutto e si nanda, capito? A me mi vedo un po' che qualcuno mi dice, ah, dove sei fuori, di nuovo trasferito, piano, no, cioè, sono a casa, non c'è problema, è che ho degli orari particolari, degli orari dove sono molto impegnato e quindi non esco poco, non ci sono niente, perché cosa faccio? Arrivo alle 6, alle 7, anche alle 8 di sera, dalle 6 di mattina, quindi parlo fuori, cosa fai? Quando arrivi, mangi dei colichi. È un proprio, per carità, Schomburg. Lo so, guarda, è così dappertutto. Tu figurati che io quando entro in ufficio accendo il computer, appena entro a fare le verifiche, è tutto registrato, l'ora in cui entro, sui server, i controlli che devo fare, eccetera. Quindi, figurati se entra uno che non capisce una mazza, fa casini ed è tutto penale. Perché poi stai tranquillo che se c'è qualcosa l'amministrazione dice che è colpa tua, perché non vai a fregare niente. E quindi bisogna stare attenti. Oramai, dato che ti tratta una pesce in faccia, cosa devi fare? Se lo puoi risolvere un problema lo risolvi, se no, no. Per uscire con la macchina ogni città, noi dobbiamo giustificare il fatto che stiamo uscendo a lavorare, cioè stiamo arrivando anche a queste cose, quindi tutto registrato, l'ora, il rientro, l'aspettamento del ticket richiesto dall'utenza, il tipo di intervento. Guarda, un casino, 3 persone per gestire migliaia di utenti, ma poi Italia è una pagliacciata che si gira le balle, a un certo punto diciamo io faccio quello che posso fare, anche perché poi non è come dicono loro, questi signori che stanno lì seduti dalla mattina alla sera nella tassa della pancia, l'età conta, quando invece di essere 60 non è più come quando avevo i 50 e non è più quando avevo i 40, quindi l'attenzione viene meno, anche se sono appassionato di certe cose, però qualche colpo inevitabilmente l'ho preso, la vista inizia a essere quella che è, prendere sul computer devi usare sempre gli occhiali, quando esci spesso i locali sono al buio, ti portano anche la torcia, presto, insomma un casino totale. Ed è così per tutti. Ma non dare fuori a più niente a nessuno, giovani non sono vero neanche col telescopio, ma insegnate qualcosa. E quindi, cosa vuoi che ti dica? Ma io guardo il tuo lavoro, sono sentendo se devi ammettere anche dei paletti a farne meno ore appena puoi di scappare, perché già lo sai che pesa, Io ho fatto per tanti anni anche il servizio automobilistico, andavo a Cagliari, stavo lì mattina e sera, rientravo anche la notte, sempre a quelle velocità folli, però se c'è l'età, con questa età è difficile farlo, piano piano ti accorgi che i riflessi scendono, non sono lavori da fare le stazioni, perché le paghi caro. Vediamo se ritorna Natalino, forse la chiamo ancora lui. Come infatti farò già fra il problema d'inverno, io la verità non ho grandi difficoltà, perché entro alle 7:30 esco alle 2:05, ma posso tardare di 10 minuti, capito? 2:30 sono a casa e va bene così. L'obiettivo per me è micidiale, perché io ho molti controlli di impianti. Soprattutto per il residuo c'è tutta la zona del mare, quindi da Badesi, Trinità, Padoletta, Maremeta e l'Isola Rossa, che sono i punti più strategici tra proprio questo mese, perché ho visto che giugno non è che è stato un grande boom, però sicuramente stamattina sentivo il mio collega che era di servizio e dalle portate, dagli ingressi che ci sono gli impianti si vede già che l'aumento c'è, l'incremento c'è, le persone ci sono, quindi facciamo luglio-agosto sono due mesi di sacrificio, perché poi dal 25-26 agosto iniziamo veramente a calare, si stabilizza, quindi dal prima settimana di settembre torna tutta la normalità. Poi è pesante per me è pesante, perché vai a gestire una cosa che è inaspettata, non sai mai che cosa succede, capito? Spero con tutto il cuore che insomma a me la frutti nuda del mare, che faccia un luglio e agosto a questi livelli, cioè in giornate così tra pioggia, vento, dalle varie, che non ci siano grandi giornate proprio da 30 gradi tutti i giorni, perché l'incremento sale, ma sale tantissimo su impianti di gestione, processo, di cosa ti posso dire, di 1.000-1.500 persone in quella zona, 2.000 persone, 3.000 persone, va un incremento in aumento, soprattutto a 12.000-13.000, tu mi segni che allora iniziano i disastri, perché la gestione non è più quella, devi cercare di rattoppare, soprattutto con interventi straordinari per far sì che tutto funzioni bene. E quindi devi essere sempre presente, le squadre ci sono, ma sono sempre poche, e quindi tra l'altro poi i colleghi è chiaro che hanno bisogno delle ferie, ultimamente è stato fatto un piano di ferie, ma rifiutato alla grande, cioè bloccato, non rifiutato, quindi anche io dovevo andare in ferie, fare qualche settimana di ferie a giugno, giusto per staccare un attimino, invece per problemi appunto lavorativi non è stato possibile, adesso non sarà possibile a luglio, non sarà possibile ad agosto, andrò in ferie quando la stagione è quasi terminata, quindi a metà settembre, cioè quando tutto popolare, ma tu stai trattando come sono io, perché io ho un lavoro particolare, ma stai tutto l'anno trattando, aspetti le ferie o a luglio o ad agosto e te le danno a fine settembre, a metà settembre, praticamente travagliato tutto l'anno senza fermarti un attimo, lì il problema, capito? Guarda, io ti dico, solo che io devo fare le ferie l'anno scorso, ho 21 giorni di non so quanta eccedenza da smaltire e non ci riesco, e ad agosto ho professione servizio anch'io e sarò solo, non ci sarà nessuno, capito? Sarò solo se c'è qualcosa, devo stare ogni giorno con lo stretto che tutto vada bene, perché non posso neanche uscire a fare da un quarto, capito? Un menefreghismo, un disastro a 360 gradi, però in due io non mi posso dividere. E queste ferie poi mi stanno sollecitando, fatele quando te le fai, e non so quando me le faccio. D'altronde c'è anche il fatto che da noi, oramai in tutte le pubbliche amministrazioni, anche aggregati vari, l'ordinario non esiste da anni, perché non ce la fanno fare. Io rimango di lì, però posso rimanere un'ora, due ore, quello che è, e poi però me la devo smaltire, perché tanto non te le pagano, quindi non solo, ma devi pure chiedere, mandare la giustificazione perché sei stato due ore, un'ora lì, più, quindi va, lasciamo perdere. È tutto un casino, grande quanto una casa. Confusione, stress, veramente a volte ti viene voglia di mandarti tutti in quel paese, chi se ne frega, io devo pensare a me e non ai casini che state combinando. No, perché poi si mette anche il piano salute, che capito che è molto importante. Molto importante, no, beh, da noi questo non succede. I sordinari sono pagati, io sono in bacheca, in codice rosso permanente, quindi non ho problemi di fare ore perché mi vengono retribuite, assolutamente, soprattutto in questo periodo, quindi giugno, luglio, agosto, tre mesi, quindi non è quello il problema, grazie a Dio non mi posso lamentare di niente, perché mi viene dato tutto ciò che io, tutto ciò che timbratura e ore da me non esiste, perché ripeto, proprio io ed altri come me siamo in codice rosso permanente, quindi non abbiamo bisogno neanche di fare richiesta, timbriamo, per esempio io timbro alle 6:30 la mattina e anziché timbrare alle 1:25 timbro alle 17:50, non ho nessuna giustificazione da dare, capito? Perché proprio sono in codice rosso, cioè non mi posso trattenere, certo non posso fare 10 ore al giorno in più, ma alle 3, alle 4 ore le posso fare tranquillamente, perché me lo prevede proprio il mio servizio, capito? Quindi non, su quello non mi posso mettere. Ma vengono i soldi, però alla fine, mamma mia, un sacrificio grande, già fra io ho solo un'ora di viaggio tutte le mattine quando prendo la macchina in servizio, che poi tra l'altro la mia macchina in servizio è con satellitare, quindi devo mettere, cioè, la cartella, il foglio di marcia, dove metto l'uscita, chilometri, ingresso, percorso, tutto, nonostante ci sia satellitare, perciò è tutto visivo, tutto all'ordine del giorno, non è che puoi nascondere niente, loro sanno dove sei, sanno dove è tutto ciò che è tutto documentato, cioè, però ripeto, non mi posso lamentare. Se fosse così come stai dicendo tu, è chiaro che ore sono 1:25, ciao a tutti, ma guarda che quell'impianto è fermo, ciao a tutti, ci vediamo domani, ciao, ma non altro, io mi sono gandendi, capito? Allora avrei chiaramente girato le spalle, ma siccome l'azienda dà, tu dai, quindi insomma, un sacrificio, ma dai, e se non pagava il straordinario, che c'era, tutti i lì alle 2:30 è stata a casa, no, da noi non esiste questa cosa, non esiste, come retribuzione, ti ripeto, non mi posso lamentare, come gestione di retribuzione, non mi posso lamentare, non mi manca niente, grazie a Dio, va bene così, però sacrificio, lui parlava di tutto di correnti e scrivendi, correnti e scrivendi, ma non così. Calcolatrice, computer e telefono. Lascia perdere. E vabbè, ma lì è una giornata un po' movimentata e poi si consegna tutti i fogli e foglietti e si riprende il mese normale, però intanto devi farlo in quello che sono le ore lavorative, se no non ce la fai. Sì, così. Ma guarda, io penso che tu, il nostro lavoro, a prescindere che è diverso, è un tutto un altro settore, però a parità di guadagno tu potresti a spalle e diresti ma dal di biglietti in giro e figurati che rispetto agli anni scorsi il mio stipendio è diminuito di parecchio. Io prendo cioè non lo dico, però è veramente poco. Ti basti sapere che il corrispondente del mio collega tedesco prende esattamente il doppio di quello che prendo io, il doppio è in euro, per darti un'idea. Il fatto solo che non ti paghino le ore celesti ti riduce tutto, praticamente è un stipendio secco, supportassato, che alla fine ti darà una pensione inferiore ai 200 euro. Quindi, insomma, non è una cosa tanto che ti voglia tanto. E più o meno tutti siamo nella stessa situazione. Però cosa devi fare? A un certo punto devi tirare avanti. L'unica cosa che ti salva, ad esempio nel mio caso, è che non c'hai figli, non c'hai la casa è pagata, la macchina è pagata, ti metti qualche cosa da parte, se ci riesci, proprio con la vecchiaia, e ti fai una sorta di assicurazione economica per i tempi bui, tanto una volta andato via, se andrai via a 78 anni, come hai previsto, aspettarti varie di quanto sarà, di 12 anni di vita. Aspetti altri 2 anni, ti danno anche la buona uscita, perché non te la danno subito, perché anche quella saranno studiata, quindi 2 anni per avere anche i soldi che hai messo da parte, e l'aggiungi all'altro gruzzo dove hai risparmiato e ti riaccampa, altro non puoi fare. L'importante è fare il tetto che sia tuo. Ma chi non c'ha neanche quello, anche se non c'ha figli, è inguagliato di brutto, anche se ha lavorato tutta la vita, come dici tu, 40, 41 anni, 42 anni, però hanno distrutto la famiglia, perché molti che prima erano pensionati, e cioè avevano una pensione decente, sui 1200, 1300, 1400 euro tranquilli, un figlio disoccupato lo potevano anche mantenere per un bel po'. Adesso invece proprio sono disperati, perché il figlio non trova lavoro, non riesce neanche a andarsene fuori, insomma, la situazione che ce n'è a Nazzo. Tremende, meglio non pensarci. Grazie a Dio ho finito il diploma, si ritrovate e sta subito lavorando, adesso è a posto, anche troppo strano, non siamo usciti poco fa dalle varie 3 alle 3, invece la prova mi trattengo perché ce l'ha a fare, quando ha pagato lì, e quindi continua anche avanti, un'attività non c'è da fare. Però bisogna anche stare nell'ambito di quelle ore che si possono raggiungere e fare anche fisicamente, no? Non è facile fare lo straffone, dire io voglio fare tanto qui e là, ma poi cedi, poi crolli, no? Non si può fare una cosa del genere, io ho colleghi che purtroppo hanno problemi familiari, quindi sai, non rientrano a casa, c'è proprio panino, tu fra qualche anno, come ce l'hai questo stomaco? Hai bisogno di mangiare non solo un panino a pranzo, un panino a cena, hai bisogno di mangiare di tutto. Ma io sono da solo, come faccio qui e là, come ti guardi? Io ho fatto il trasfertista per anni, capito? Perché quando ero a Cagliari, alla Saras, stavamo costruendo il depuratore, noi a me mezzogiorno stacchevamo e andavamo a pranzo seduti, capito? Un'ora e mezzo rientravamo alle 2 e finivamo alle 6, anziché finire alle 4 finivamo alle 6, però si andava a pranzo, non puoi mangiare così alla calora perché ti distruggi, capito? Ti distruggi lo stomaco, ti distruggi il fisico, ti distruggi tutto, a parte un fatto che non ha nessun significato mangiare a quelli veri. Eppure l'ho fatto, io trasfertista per 2 anni a Cagliari, il venerdì alle 4 partivo e rientravo lunedì mattina alle 7, ero già a Cagliari. Però, tranquillamente, grazie a Dio, non ho mai avuto problemi di niente, perché bisogna anche l'alimentazione essere regolare. Se tu già sei stressato, anche se hai giovane e terigani, in più ti metti a mangiare panini e bere birra tutta la lì, come ti vai? Alla fine si diventi un moscio, lui cammina, non esiste una cosa del genere. Quindi anche quello è molto importante, capito? Perché io quando mi trattengo non mangio panini, io stacco mezz'ora, se non ce la faccio in 30 minuti saranno 40, saranno 50, però mangio sempre un primo, un secondo veloce, una bottiglia d'acqua e via scappo. Non avevo a mangiare panini, se no sei morto. Vediamo che fine ha fatto l'altarino. Natali, è sparito, non so cosa sia successo. Ho sentito la moglie della chiamata. Capito Gianfra, purtroppo è così, comunque. Per il resto non ci possiamo lamentare, dai. Domani lunedì, a gamba sabato, d'ora. Vabbè, io adesso rientro domani e poi se ci riesco inizio a farmi qualche settimana, perché tanto ad agosto non ci posso andare. Settembre non so come va a finire e quindi tutto allo sfascio. Vediamo un po'. Almeno una o due settimane me ne devo far forza a prendere, e poi ce ne avanzano troppe. E quella di quest'anno finisco all'altro anno d'ora. E purtroppo è così. È così. Anch'io non faccio rientri, non torno a casa, mangio, perché tanto mangio porcherie, anche se vai e non compriamo la roba in quel negozietto che c'è lì a Londra. Compriamo qualcosa, però non sai com'è fatta, non sai la stessa cosa, e quindi non ci resta anche attento. Ecco. Già mi sono preso un mezzo accidente 2 settimane fa con quel cazzo di macchinette che ci sono, chissà, ci mettono la trasporta, deve essere, mi ha inguagliato di brutto. Quindi anche quelle, evitarle, salviate, mi ha fatto male. Insomma, sono casino, sono casino. Vabbè, tra 8 meno 5, ma le 2 me ne vado a cena. Tu porterai il padrone a spasso per i suoi bisogni e quindi ci risentiamo. Sì, Giaffra, sì, sono già le 8:05 quasi, infatti mi è già qua in stanza, è venuto a ricordarmi che ero uscito. Io già faccio 26 giorni di ferie accumulate nel 2016, capito? 26 più pronto adesso, non ne ho fatto a giugno, non ne faccio a luglio, non ne faccio a agosto, non ne faccio a settembre, o se le farò a fine settembre, quindi conta, sono quasi 2 giorni al mese e quindi salgono, sono 2, 4, 6, altri 6 giorni ce ne andiamo a più di 30, e cosa vuoi che faccio? Non so. Decideranno poi che cosa fare, se incrementarla in denaro o se farmela fare durante il periodo invernale. Vabbè, anche durante il periodo invernale a me piace stare a casa. Soprattutto sono quelle bruttissime giornate, fredde, di pioggia, di vento, perché no? Va bene lo stesso. Ok Gianfra, ti ringrazio delle 2 chiacchiere e ci sentiamo. Dai, fatti sentire. Io già le sere insomma che posso rientrare e accendere la radio già ci sono. Ok, ciao Gianfra, buon fine domenica, buon tutto, alle prossime, saluto anche quelli che sono in ascolto, ciao. Ok, ci sentiamo. quello, speriamo che almeno noi ce la capiamo, perché con questi chiari di luna è veramente difficile, siamo a guerra e la dobbiamo combattere fino alla fine. Vabbè, alle prossime, buona giornata, buona serata, buona cena, e anche a tutti quelli che indubbiamente stanno ascoltando, registrando, filmando, se è possibile. Va bene, ciao ciao, alle prossime, ciao Natalino se sei in ascolto e a tutti gli altri, buona serata. Ciao ciao Gianfrai, Natalino aveva avuto qualche problema, era chiamato la moglie, l'ho mandato la moglie. Ci sentiamo, vado a portare il cane, ciao ciao Gianfrai. Ciao ciao.